E eccoci qui con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavola condotto da Claudio e Pietro di Area Games for Lee. Eccoci qua. Saluta Claudio. Belli come sempre. Ok. Siamo qui, ospiti come sempre di Radio Big World, la nostra radio madre. E quella che avete sentito prima della mia voce è la nostra sigla, ovvero Happy Days di purpleplanet.com. Bene, pronti a iniziare con un episodio un po' diverso dal solito. Perché Ma come sarà. sempre, ultimamente cambiamo tema ogni tanto perché è giusto così. Cambiamo format quasi. E questo episodio sarà un confronto più che altro su un genere più che su giochi precisi e spiegazioni di regolamenti. E quindi parliamo del genere che tutti quanti amiamo più o meno. E il genere è il genere dei giochi cooperativi. Sì. Principalmente il genere cooperativo piace più o meno a tutti i giocatori da tavola, solo diciamo ai classici Eurogamer German, magari, non, cioè, magari anche a loro, ma non a tutti, sono anche giocatori che giocano solo German magari a volte, quindi non sono avvezzi a questo tipo di meccanica, però principalmente sono giochi adatti anche a iniziare nuove persone o comunque per larghi gruppi, quindi giocati un po' da tutti i giocatori da tavola, insomma. Allora, innanzitutto iniziamo dicendo che cos'è un cooperativo. Un cooperativo è un gioco in cui i giocatori sono tutti assieme e vincono tutti assieme o perdono tutti assieme. Questo almeno nei cooperativi classici. Poi dopo sono nati altri sottogeneri o comunque delle varianti come il cooperativo contraddittore o i semi-cooperativi. Sì, cioè ultimamente, più che altro ultimamente sono principalmente cooperativi contraddittore negli ultimi tempi, o Ma comunque cooperativi a campagna. il semi cooperativo in realtà quello per eccellenza probabilmente è Dead of Winter. E anche se negli ultimi giorni ho scoperto che la tanto decantata prerogativa di Dead of Winter, che ognuno ha il suo obiettivo per vincere, era già presente nella prima espansione di Battlestar Galactica, l'espansione Pegasus del 2009, in cui soltanto un tipo di giocatore aveva questa meccanica, però comunque era già presente. Dead of Winter non ha inventato niente, ma del resto chi inventa qualcosa? Sì, ma più che il pregio più che altro di Shadowwinter magari è dato dagli eventi del gioco che è la meccanica Crossroads comunque. Sì, e soprattutto dal fatto che nonostante i zombie abbiano rotto le scatole, quel gioco lì, i zombie, cioè non lo senti questa ambientazione trita e ritrita. Potresti togliere i zombie e metterci gli orsetti del cuore, che rimarrebbe sempre un gioco che dove in realtà tu stai gestendo una colonia di persone. Cioè, Sì, potrebbe. ma questa è una cosa che succede nei cooperativi. I cooperativi possono essere di due tipologie, o come Dead of Winter, che si basano totalmente sull'interazione tra i giocatori, perché in quel caso chiunque è un potenziale traditore, perché ogni giocatore fa quello che gli pare, perché ha un obiettivo personale da portare avanti, ma è segreto. O può essere in giochi come Shadow over Camelot, dove addirittura il gioco ti incita a recitare, per farti capire e vivere l'ambientazione più che la meccanica. Quindi sono di varie tipologie. Ci sono i giochi che sono più avvezzi all'interazione sociale, però sotto un punto di vista della meccanica, perché tu sai che uno di questi è traditore, mentre altri che sono sempre sull'interazione sociale, ma più per farti vivere l'esperienza del gioco, quindi l'ambientazione. Nel Dead of Winter l'ambientazione la senti di meno, in Shadow Over Camelot la senti molto. E tra l'altro abbiamo scordato di dire una cosa che mi è venuta in mente. Ci sono anche, c'è anche un'altra tipologia di cooperativi, che sono i cooperativi con il giocatore che invece controlla le meccaniche del gioco, che comunque fa il cattivo, Sì. come le case della follia o tutti i vari hidden movement come la furia di Dracula, Letter from Whitechapel e così via. Quindi comunque anche se sono cooperativi, un giocatore sarà sempre da solo. E devo dire che un altro pregio di Dead of Winter, ad esempio, rispetto magari a Last Night on Earth, che è un bellissimo gioco, è che non c'è questo obbligo che un giocatore tenga i mostri, che spesso è pesante, soprattutto perché magari il giocatore che deve tenere i mostri è il proprietario del gioco, che non ne può più perché tutte le volte deve fare sempre quello. Sì, perché è una fetta del regolamento comunque da conoscere anche quella. Sì, Quindi il infatti. proprietario è quello che la conosce meglio e se devi insegnare a un nuovo giocatore come funziona tutto dopo, se vuoi provare a giocare con gli altri giocatori. Ma questa cosa qui, infatti, se si va a vedere nei giochi futuri, è una cosa che ci siamo lasciati alle spalle, perché prendiamo per esempio le Case della Follia, come ben sapete, è uscita a breve, da poco, la seconda edizione della Case della Follia che ha tolto il giocatore che utilizza i mostri e queste meccaniche e ha integrato tutti i giocatori come investigatori in questa ambientazione Cthulhu e ci sarà un'applicazione che guiderà i mostri, quindi è una meccanica che va per conto suo, che però si sviluppa a seconda delle interazioni che noi giochiamo in queste praticamente quest, questi casi che vengono generati a caso. Tra l'altro, giusto per curiosità, stavo guardando qual era il gioco da tavola cooperativo più vecchio. E effettivamente, io andando a memoria, pensavo, adesso, cioè, ero sicuro che non era quello, però di quelli che stavo pensando era Shadow Over Camelot. Poi, aspetta, Ah, io pensavo anche al Signore degli Anelli di esatto, Knizia. ho letto Signore degli Anelli di Knizia e ho detto, ah sì, è vero, quello del 2001. Poi ho letto un altro gioco che ho giocato. E non ricordavo che era un remake, perché l'originale è ben dell'81 ed è Sherlock Holmes, consulente investigativo dell'Asterion, che è una riedizione dell'originale dell'81, quindi è un gioco cooperativo che ha i suoi anni. Anche se diciamo che il gioco ricorda quasi più un GDR o comunque un libro game che un gioco da tavola. E infatti a livello di componentistica parliamo solo del cartaceo essenziale. È un gioco in cui ci sono 10 casi all'interno, ognuno con il suo regolamento, e i giocatori hanno una mappa di Londra, un libretto con gli indirizzi e appunto questa avventura da consultare, e tutti quanti procedono insieme in questa avventura seguendo passo per passo la loro investigazione. E devono battere in tempo Sherlock Holmes, perché Sherlock Holmes ha un percorso predisposto che si scoprirà alla fine del gioco, e lo scopo appunto è risolvere il caso prima di lui, cosa impossibile perché Holmes praticamente quando gli va male perde un turno, per il resto va sempre dritto alla risoluzione del caso. L'unico modo per battere Holmes è risolvere il caso perfettamente e trovare anche tutte le cose secondarie, perché ci sono anche, diciamo, delle side quest, e risolvendo quelle si riesce a battere Holmes. E comunque è un gioco in cui i giocatori semplicemente leggono come prosegue la storia e cosa succede dove, nei punti in cui decidono di andare, e appunto i giocatori si confrontano tutto il tempo e decidono dove portare avanti l'investigazione. Ma sembra quasi più un gioco di ruolo, appunto un libro game di gruppo, che un gioco da tavola. Esatto, hai detto bene di gruppo perché giochi di questo tipo, a parer mio, poi magari posso anche sbagliare, secondo me vanno giocati con il minimo di giocatori possibili, quindi potrebbe anche essere, sarebbe potuto anche essere magari un gioco solitario o da due, perché come si può ben riconoscere, più giocatori ci sono a investigare sullo stesso caso, più disaccordi ci saranno, perché ovviamente le persone agiscono in modo diverso. Quindi è ancora più difficile battere Sherlock Holmes perché ci sono varie possibilità e c'è quello che dice andiamo da questa parte, no, rimaniamo qui a investigare su questo oggetto. Quindi è ancora più facile praticamente cadere in un vicolo cieco. E poi, essendo un gioco in cui bisogna prendere la parola e comunque parlare davanti a tutti, confrontare le proprie idee, c'è il rischio che qualche giocatore magari si faccia passare sopra dagli altri e non riesca mai a dire la sua, o comunque non si faccia mai quello che lui pensa sia il percorso giusto, e quindi è un gioco che magari per certe persone che sono un po' più timide, un po' più riservate, non è adatto perché diventano spettatori più che altro, e soprattutto perché nei cooperativi compare una figura dei giochi da tavola che appunto emerge solo nei cooperativi, ovvero il conduttore d'orchestra, diciamo, la prima donna, quel giocatore Sì. che giostra tutto il gruppo, consiglia a tutti cosa devono fare, anzi, più che consiglia, ordina a tutti cosa devono fare, insomma. Beh, questo ne avevamo già parlato in passato, però ovviamente non è una cosa che succede sempre. Può succedere che c'è una persona al tavolo che conosce meglio il gioco e quindi inizia, diciamo, a imporre certe azioni perché sono quelle che servono per vincere la partita. A coordinare praticamente. Sì. E poi non è detto, poi si può anche finire per perdere comunque. Sì, Tanto ah sì. dipende anche dalla cooperativa, perché comunque c'è sempre il fattore fortuna di solito. Ci sono cooperative che io non ho mai visto vincere ancora, eh. Beh, ci sono anche cooperativi che io invece non ho mai visto perdere, purtroppo mi tocca dire anche così, però. Sì, Ci stanno anche questi difetti. sì. Ad esempio, un cooperativo che ho sempre visto vincere è il Signore degli Anelli di Knizia. Però Sì. è anche vero che non ho mai giocato a difficoltà difficile. Mentre io posso dire che il cooperativo che ho vinto ben 3 volte e ho sempre vinto senza alcun problema è Xenoshift Onslaught, che per carità è un bel gioco, però personalmente giocando, ho giocato Shattered in 4 giocatori, è molto facile. Cioè, il gioco inizia che è difficile, più vai avanti, più tu diventi forte, mentre i mostri alla fine sembra che siano rimasti allo stesso punto, quindi dopo, se tu vai avanti, dopo non riusciranno più a farti alcun danno. Il possessore del gioco, tuttavia, mi ha detto che non ha giocato una partita da 2 giocatori dove sono stati massacrati a metà partita. Quindi probabilmente lì è il numero di giocatori che cambia la difficoltà. Più si è, più facile è, a quanto pare. Infatti anche nel Signore degli Anelli esiste l'espansione in cui un giocatore controlla Sauron. Questa è una cosa che viene usata spesso. La prima espansione aggiunge il giocatore in più che controlla il male, diciamo, come appunto questo, il Signore degli Anelli o Pandemic, l'originale Pandemic, in cui la prima espansione On the Brink portava il bioterrorista, ovvero un giocatore che aiutava la malattia a diffondersi. Stavo pensando ad altri esempi. Ah, beh, sì, Ghost Stories, la seconda espansione introduce il giocatore che controlla Wu Fang. E poi, appunto, come dicevamo prima, ci sono giochi dove di base il male è controllato da un giocatore, come appunto Le Case della Follia, piuttosto che A Touch of Evil, Arkham Horror, Van Helsing, Lettere da Whitechapel. Whitechapel. Questa meccanica del lead movement è esatto, un'altra cosa da considerare è la meccanica del lead movement che troviamo anche in Pandemic on the Brink, per dire, perché il bioterrorista è invisibile e gira per il mondo nascosto, come Dracula nella Furia di Dracula. Sì, però la differenza è che nella Furia di Dracula l'obiettivo è trovare questo giocatore, in Pandemic è come togliersi una spina dal fianco invece, Sì, trovarlo. lo rallenti semplicemente. Non è lo scopo inseguire lui. Però appunto nei cooperativi, quello che volevo dire, ritroviamo questa meccanica del lead movement anche in un gioco di cui abbiamo parlato spesso, che è Spectre Sì, che anche questo gioco qui riprende una cosa che abbiamo detto precedentemente, sempre in questo episodio. Come abbiamo già detto nel gioco di Sherlock Holmes, dove c'è questa cosa dell'interazione di avere idee diverse, dove lì può essere una cosa negativa, in Spectre Ops invece è una cosa totalmente positiva. Perché Spectre Ops, oltre ad avere il difetto di essere un gioco fino a 5 giocatori forzato, perché la meccanica 5 giocatori è totalmente sbagliata, perché aggiunge un traditore che però, anche se tu sai chi è, devi praticamente riuscire a fare una certa cosa per rivelarlo. Anche se tu sai che è lui, se non attivi una certa cosa durante la partita, non lo puoi rivelare e ti tocca tenerlo in squadra. Ma tralasciando questo, volevo dire che giocando in due in Spectre Ops è una partita uno contro uno scacchistica. Giocando da 3 giocatori fino a 4, tralasciamo il 5, i cacciatori che devono inseguire questo agente che agisce in modo invisibile sono persone diverse, quindi uno dice: se tu fai questa azione e io vado di là, potremmo chiuderlo in quel vicolo cieco. Però l'altro giocatore potrebbe non essere d'accordo, perché potrebbe dire: ma se abbiamo sbagliato, ci scapperà per almeno altri 4 turni. E Già. succede sempre questa cosa, ma è giusto così. Perché se non fosse così, la gente verrebbe ucciso tutte le volte. Infatti, io ho notato che, avendosi giocato molto in una partita in 2 giocatori, o in tre giocatori dove i due cacciatori fanno le stesse identiche cose, cioè praticamente agiscono insieme, la gente è destinata a morire nel giro di 4 turni, perché è tutta una cosa matematica. Se tu impari a memoria la plancia, lo becchi. Dopo c'è una questione di dadi, se hai preso certi agenti che può riuscire a scappare ancora per un po', però se ti impari a memoria il gioco è destinato a finire brevemente, se non ci sono dissapori, disaccordi tra i cacciatori. Quindi più sono disaccordi. Ed è giusto così, perché se vuoi giocare a scacchi, vai a giocare a scacchi, non a un cooperativo. Cioè, tutti i giocatori devono potersi divertire, non è uno che comanda, gli altri sono i fanti che eseguono gli ordini. Se uno vuole giocare Però così, va a giocarsi da solo, cioè, in un gioco in cui lui è da solo contro gli altri, e in un competitivo, insomma. tuttavia questo caso qui non, secondo me non capita molto spesso, perché su internet su questo gioco, Spectre Ops, leggo più che altro che la gente si trova sempre con la gente che vince, quindi vuol dire che i cacciatori non hanno tutta questa gran chimica. Mi è venuto in mente un altro cooperativo molto molto particolare che abbiamo provato molto tempo fa, cioè neanche tanto in realtà, ed è Shadow in the Woods. In tedesco è, scusate, è Wald Schattenspiel. E ti ricordi, Claudio, quel gioco con la candela? Sì, ah ok, infatti non È capivo un questo qua. gioco cooperativo molto particolare. Praticamente è un astratto quasi, dove ci sono questi gnomi in un bosco che si nascondono dalla candela, grazie alle ombre proiettate dagli alberi. E praticamente lo scopo dei gnomi è riunirsi, mentre un giocatore che controlla la candela deve illuminarli. Una volta che un gnomo è illuminato, è bloccato finché un altro non lo va a salvare. Quindi la candela deve paralizzare tutti i gnomi, mentre i gnomi devono riunirsi. È un gioco che si fa al buio, quindi è molto difficile da giocare in un'associazione, ad esempio, però è veramente simpatico come idea. Sì, è sicuramente un cooperativo unico quello. Sì, anche questo è degli anni 80, dell'85. Mi è venuto in mente così, pensavo cooperativi che magari nessuno dei nostri ascoltatori ha mai sentito, per non parlare sempre le stesse cose. E Shadow in the Woods, infatti, è stato un gioco molto particolare da scoprire. Parliamo adesso di casi particolari. Allora, un cooperativo, ci sono cooperativi super complicati, soprattutto se li riempi di espansioni, no? Come possono essere Eldritch Horror, Arkham Horror, Battlestar Galactica o Ghost Stories, in cui a forza di aggiungere espansioni ci sono tante di quelle regole da spiegare che al giocatore che fa la prima partita gli fa una testa così. No, ma infatti se devi prendere uno di questi giochi, gli fai giocare il base senza le espansioni prima, devi impararci il base. Però quello che volevo dire era che ci sono anche cooperativi dove invece il tentativo è stato ridurre la meccanica fino all'osso e ci sono riusciti. E questo è il caso di L'Isola Proibita e Il Deserto Proibito, che sono sicuramente come cooperativi minimali ottimi, perché c'è tutto quello che ci deve essere, funzionano, piacciono ai bambini, sono facili da spiegare, possono però venire alla noia facilmente dopo un po', ovviamente, perché comunque alla fine il gioco lì è sempre quello, non ci sono espansioni, scusate il romagnolo, il gioco è sempre quello, non ci sono espansioni, non ci sono meccaniche che possono stravolgere una partita piuttosto che l'altra, e quindi alla fine stai facendo sempre la solita roba. Però il tentativo sicuramente dei creatori del gioco, perché se non sbaglio sono più di uno, di creare un cooperativo minimale ma comunque completo è riuscito. Cioè, veramente, le prime partite all'Isola Proibita sono molto belle. Il Deserto Proibito è anche meglio perché la meccanica della sabbia rende il gioco molto più intrigante. Invece, un cooperativo che secondo me non è riuscito minimamente è Room 25. Ok, Tu cosa ne pensi, Claudio? allora qui entriamo in una zona minata. Perché se tu mi tiri fuori questo titolo, dopo che io ti avrò spiegato i motivi per cui è un gioco che ha i suoi problemi, posso dirti che potremmo trovare anche di peggio, sempre in genere cooperativo, più avanti. Questo è poco ma sicuro. Posso dire soltanto che non riesco a capire come un gioco così brutto e noioso sia stato pubblicato dalla Matagot. Cioè, proprio non riesco a capire. Probabilmente è un fattore pubblicitario, cioè è un gioco che comunque è ispirato palesemente a una saga di film. Sì, alla saga di The Cube, Hypercube, Cube Zero. Dove mette un sacco di stereotipi come personaggi, e quindi è un gioco facilmente vendibile. Ma penso sia il cooperativo più noioso. No, allora, ce n'è uno peggiore. Ma Ce ne quello. sono. Non uno, ce ne sono anche peggio. Ma Cioè, ce ne sono di più di uno, a però vabbè. parte che di quelli ne parliamo dopo. Però quello che intendo io, cioè, lo vedi anche dalla scatola. Cioè, è proprio il concetto in sé, che è proprio. È brutto, lo vedi, quello è un brutto gioco. Questo qui, cioè, ha la sua presentazione fatta bene. Sì. Magari te lo spiegano, non sembra così banale. E invece. È il cooperativo più banale che. Ecco, banale sì, è il più banale che abbia mai giocato. Allora, si tratta semplicemente di spostare tessere. Questo siamo d'accordo che il gioco funziona così. Sì, giusto, Il spieghiamo. difetto. Aspetta, spieghiamo agli ascoltatori cosa devi fare. Vai, Claudio, spiega The Room. Allora, essendo spiegato, ispirato al Fin the Cube, l'obiettivo del gioco è che questo gruppo di giocatori deve trovare l'uscita da questo praticamente enorme cubo fatto di stanze e scappare tutti insieme, quindi praticamente arrivare a uno degli angoli, dei bordi, e una di queste tessere, che noi andremo a svelare andando avanti, ogni stanza è una tessera che è coperta e va rivelata, rivelerà l'uscita. Il problema è che le tessere che ci creeranno il percorso, per la maggior parte, saranno composte da trappole. Se si gioca in tanti giocatori, si aggiunge anche una sorta di traditore, che ha un agente sotto copertura che deve impedire ai giocatori di scappare. E quindi praticamente o fare in modo che sprechino troppo tempo a cercare la stanza, o addirittura eliminarli dalla partita. Perché sono molte stanze che sono mortali e possono uccidere sul colpo i personaggi nel gioco. Il problema è appunto questa meccanica, perché i giocatori nel loro turno hanno a disposizione quattro azioni, delle quali se ne sceglieranno due. E una di queste qui, soprattutto nella partita in cui non c'è il traditore, non serve assolutamente a niente, che è lo Già. spingere. E quindi abbiamo già un'azione in meno se giochiamo in una partita senza traditore. Facciamo caso che stiamo giocando una partita con traditore. Nessuno si fida di nessuno e la gente inizia a spingersi di continuo. Succede. Io molte volte ho visto la gente che si spinge continuamente a caso e magari alla fine vince il traditore perché i buoni si uccidono da soli senza alcun motivo. Ma il problema, secondo me, non è neanche questo. È che le cose che puoi fare sono Sono molto talmente limitate. limitate che il gioco è solo quello, cioè il gioco è solo guardo una stanza e se mi piace il turno dopo ci entro, guardo una stanza e poi ci entro, fai soltanto quello e magari per farlo più in fretta le persone girano in gruppo e quindi c'è questo gruppo di persone che guardano ed entrano, cioè il gioco è solo questo, è noiosissimo. Sì, non ha né il fattore divertimento, in più ha questo problema, al difetto che dicevo prima, che può succedere veramente che tutti iniziano a impazzire, perché succede sempre. E in più abbiamo la variabile del pubblico, che è lanciare un dado che genera cose a caso, quindi la gente viene spinta Vabbè, senza alcun motivo, e quindi peggiora ancora di più il gioco. quella lì è, però è una promo, se non sbaglio, È una quindi. Vabbè, promo, sì, però se la aggiungi può succedere che senza alcun motivo tu un turno vieni ucciso. comunque, cioè, è un pessimo gioco e rimane pessimo semplicemente con Sì, questa semplicemente aggiunta. peggiora se continua a aggiungere cose, quello è il problema. Io Non è veramente migliorato. non riesco a capire. Cioè, sicuramente è un gioco che vende dalla copertina, quindi. Uno lo vede e magari lo compra, però come può piacere? È noiosissimo, boh, non riesco a capire. Cioè, ti dirò, ai tempi non lo giocavamo perché era lì. Però Sì. se hai giochi migliori non lo giochi, è quel discorso. Cioè, tu hai l'armadio, vedi Room 25. Poi magari bassi lo sguardo, vedi Resistance, preferisci Resistance, tranquillamente. Sicuramente ti diverti di più con Resistance che con questo giocaccio. Comunque, almeno, guarda, mettiamola così, almeno alle miniature. Sì. Scusate, ma veramente Room 25 è proprio. Non riesco a capire come un gioco così brutto, cioè persino Risiko non è così brutto, riesca a vendere così tanto. Boh, Ma è credo sia inspiegabile. la sua semplicità, cioè esistono anche giocatori che vogliono il gioco veramente semplice. Cioè, diciamo che quando si entra nel mondo dei giochi da tavola, non si conoscono ovviamente tutti i grandi giochi, tutte le grandi meccaniche, quindi qualcuno potrebbe anche Ma iniziare certo, con cioè, questo. abbiamo E iniziato tutti. magari all'inizio probabilmente piace anche, poi dopo scopri i giochi più belli e Room 25 lo lasci in armadio, però magari ci puoi iniziare cioè può essere un inizio come cooperativo, può Certo, funzionare abbiamo anche iniziato questo. tutti con Bang, per dire, però O adesso chi sì, gioca, tablet, sì. nessuno di noi gioca più a Bang. Però cioè, è probabile che molte persone inizino con giochi di questo tipo, quindi poi è comprensibile. Dopo si trovano giochi che sono sviluppati in modo migliore, che magari hanno anche qualcosa di simile, ma sono fatti meglio. Ma Perché per dire, non è tanto diverso dall'Isola Proibita, anche lì si tratta di girare e muoversi su quadretti, ma quello è fatto meglio. l'Isola Proibita ha delle meccaniche più accattivanti. Sì, esatto. È un po' simile a livello di composizione del gioco. Ovviamente altre cose sono diverse, però tu prima hai giocato Room 25, poi giochi a quello, magari dopo preferisci quello. E questo è il discorso. Però c'è di peggio, ovviamente c'è anche di molto meglio. Tutto qui. Parlando di peggio, arriviamo al gioco che intendevamo prima e penso che siamo entrambi d'accordo che il gioco sia Zombie 15 o Zombie 15. Sì, sicuramente sì, stavo pensando proprio a quello, che purtroppo ha una meccanica che viene usata ancora, tra l'altro. Ed è probabilmente a livello di qualità-prezzo uno dei giochi peggiori sul mercato. Però quello è giustificato dalla valanga di miniature che contiene. Brutte aggiungerei Sì, perché. questo, vabbè, quello è un fattore, cioè, di gusti, cioè, può Sì, di piacere design, è o no. stato scelto questo design per il gioco che non è proprio nelle mie corde, però. Però sì, quello è palesemente la dimostrazione di sfruttiamo al massimo il successo di Zombicide e la moda degli zombie, facciamo un gioco con una meccanica abbastanza ridicola, lo riempiamo di miniature e speriamo che vada come Zombicide, e non è andata come Zombicide. No, e diciamo che il gioco è terribile. Purtroppo sì, perché questo gioco qui ha la meccanica in tempo reale, cioè riprende un po' quei vecchi giochi come Atmosphere, dove una volta avevi i VHS, era un gioco da tavola dove tu mettevi su questo VHS che praticamente ti fungeva da me ti diventava la meccanica del gioco. Sì. C'era questo personaggio che ogni tanto faceva dei rumori o ti diceva succede questo o pesca quella carta. Qui invece abbiamo il CD che ha la colonna sonora del gioco e in più rappresenta il gioco stesso. Si chiama Zombie 15 per due motivi. Uno, perché i protagonisti del gioco, i personaggi sono tutti quindicenni. E due, perché il gioco si gioca in 15 minuti. E infatti abbiamo questo CD che dura 15 minuti. E se tu non riesci a vincere la partita entro 15 minuti, hai perso. Quindi alla fine del CD, se il CD finisce, hai perso. E questo CD qui semplicemente ha la colonna sonora. Ogni tanto ci sono diversi versi di zombie che possono causare degli spawn di massa o attivazione di alcuni zombie. Però a parte questo, il gioco è: tu nel tuo turno hai tipo due o tre azioni, puoi fare questo movimento, attacco, uccidi tot zombie e tocca l'altro. E quindi è semplicemente un gioco di ricordarti a memoria le tue azioni e farle il più velocemente possibile. Chi ci ha presentato questo gioco e ce l'ha spiegato ha detto: ah, è un gioco molto difficile, non lo vince praticamente mai nessuno. In 2 minuti l'abbiamo vinto. Ed è stata una partita orribile. È stato molto triste perché, a parte il fatto che abbiamo. Cioè, il gioco è solo questo, tu hai tre azioni all'infinito, scegli quali due fare praticamente, una cosa simile, e le fai in modo veloce, in sintonia con gli altri, fine, non c'è divertimento. Ogni tanto senti buh, ok, bisogna aggiungere due zombie qui. Già. Cooperativo per modo di dire, cioè alla fine è un gioco di velocità, sì, dai, cioè, tutti devono farlo insieme, però. Anzi, questo addirittura è un gioco che dove il rischio che uno comandi gli altri preso dalla fretta di voler finire, di voler vincere, è molto più alto, cioè che uno sia trascinato dagli altri, fai questo, presto, veloce, devi fare questo e questo. E poi ha il difetto che cioè, allora, molti giochi aggiungono le miniature per cercare di aumentare il prezzo. Questo è un palese caso perché le miniature sono completamente inutili. Cioè, Sì, devono sì, sì. anche essere dei cubetti che devi mettere ogni tanto sul campo perché i zombie veramente non fanno niente. Già, se questo è un brutto caso dove in cui la meccanica per controllare i mostri è terribile, è veramente terribile. Un caso invece in cui l'idea su come agiscono i mostri è stata proprio geniale è ad esempio Carnival Zombie, dove la meccanica dell'avanzata degli zombie è veramente un'ottima idea. E tra l'altro, i Carnival Zombie, giustamente, anche per problemi di dimensione, non ci sono miniature di zombie, ma sono dei cubetti. E ha senso la cosa. Vabbè, ah sì, per forza, se no in un sacchetto pescavi le miniature. No, a parte quello, ma poi comunque, cioè, perché non farlo anche in Zombie 15? Perché è un fattore commerciale, cioè, dobbiamo cercare di venderlo. Però in realtà, alla fine si stavano meglio i cubetti anche in quell'altro gioco, perché tanto lì non servono le miniature. I Carnival Zombie sarebbero state solo ingombranti, vabbè. Discorso un po' quello. Mi era venuto in mente. Ah, un altro gioco invece che non ho trovato minimamente divertente, forse qui dissentiamo però, è Sì. le leggende di Andor. No, non dissentiamo, non ti preoccupare. Non, cioè, quel gioco è veramente strano perché hai così poche cose da fare, eppure sembra ce ne siano tante. Cioè, boh. Allora, ne parlo tranquillamente perché io ho giocato almeno 3-4 partite e le ho fatte. Beh, lo E tra la. possiedi il gioco, quindi è Sì, normale. tralasciamo il tutorial del gioco perché è veramente ridicolo. Sì, il Però. tutorial, sono d'accordo, sorvoliamolo. Però c'è una cosa da dire: il gioco contiene un sacco di materiale e non costa tanto. Almeno quello è una cosa positiva: ha veramente tanto materiale. Non ha miniature, vabbè, ha molti standees. Però il setup è veramente una cosa molto meccanica, cioè scegli una quest, ok, prepara questa plancia, metti questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui. Quindi è uno di quei giochi che ci vuole già tre quarti d'ora solo per il setup. E vabbè, alcuni cooperativi ce l'hanno, Arkham Horror e Red Dead Redemption sono così anche quelli più o meno, sono 3 ore solo per smistare tutti i vari mazzi. Però, qual è il problema di Andor? Che è un gioco dove tu sai già tutto quello che sta per succedere. Cioè, allora, ogni giocatore ha tipo 7 ore del giorno, che sono le Sì. loro enormi ore di azioni. Dopo che tutti avranno fatto le loro azioni, più volendo eventuali due extra se spendono dei punti, sa che i mostri faranno quella certa azione. Cioè, tu sai già quali mostri sono in campo e sai già come si muovono. Sai già tutto alla perfezione. L'unica cosa variabile è il combattimento che dove devi lanciare dei dadi e tu puoi semplicemente massimizzare la cosa prendendo dei potenziamenti. Però è un gioco dove tu sai già tutto. E questo è un difetto, perché nei giochi cooperativi il bello è l'imprevedibilità. Cioè, Ghost Stories, ti compare un divoratore proprio nel punto in cui non doveva comparire e ti mangia l'abitante che ti fa un effetto negativo assurdo. In Shadow Over Camelot compare l'evento che fa un danno a tutti, muore metà del gruppo. Perché magari un giocatore precedentemente ha usato male una carta che poteva salvare la situazione, ma questo lasciamo perdere. Cioè, insomma. Non c'è niente di particolare, cioè tu sai già tutto quello che succede. L'unica cosa è quando hai risolto una quest, gira la prossima carta e piazzi dei nuovi mostri, che però dopo rimarranno lì finché non finisce il turno e sai già dove andranno. È un cooperativo per giocatori di German, per giochi di giocatori di German, sì, perché loro Lo so, sì. vogliono il minimo di alea possibile. Infatti, Ghost Stories è un gioco orribile perché tiri il dado, e in questo gioco praticamente è solo matematica, quindi. No, ci sono anche qui i dadi, però sai qual è il difetto? Ci sono tante quest, però ci sono tipo solo quattro tipi di mostri all'infinito che incontrerai tutti dalla terza quest in poi, quindi è sempre uguale il gioco. E per cambiare un po' le cose, nell'ultima quest ti mettono il drago che ha una valanga di vita. Però non cambia, cioè alla fine cosa cambia? Che è una battaglia che devi fare più volte. Cioè alla fine il gioco è lo stesso, le quest si differenziano proprio per piccolezze e i mostri sono sempre i soliti, cioè non è come in Arkham Eldritch Horror che sono una valanga di mostri diversi. Già anche solo questo è un difetto. In più tu, cioè, veramente. Ah, ok, io ho ancora 7 azioni. Quei mostri là, tanto anche se si muovono, non combinano nulla. Allora vado a farmi i cavoli miei. Il discorso è quello. È proprio noioso. Non è. Cioè, perdi il fascino che ha questo genere. È un gioco tutto meccanico. Sì, infatti io ho fatto solo una partita, ma mi stavo addormentando quasi. Perché, boh, cioè, non avevi neanche da pianificare il turno, dire faccio questo, faccio quello. Sei obbligato a fare, cioè, non so, è quasi obbligatorio quello che devi fare. Sì, cioè, tu sai, c'è un mostro davanti al castello. Se non lo uccidiamo entro 7 azioni, quello entra e ci fa un danno generale. Va bene. Proviamo ad abbassarlo e poi dopo andiamo a potenziarci perché gli altri sono lontani di 5 passi. Il discorso è un po' quello lì. Allora, è un gioco che piace, sono diverse persone a cui piace, ma il discorso è sempre il solito. È un cooperativo per iniziare anche questo, volendo, perché è un po' particolare ed è semplice alla fine, cioè non hai troppo da pensare perché tanto tu vedi già tutto. Quindi si può stare per qualcuno che non vuole troppe meccaniche. Però non è certamente un gioco dove trovi della competizione contro il gioco, perché in realtà il gioco ti ha già detto tutto. Sì. Tutto qui. Invece Però non è peggio di Zombie 15, eh. E penso che sia anche migliore di Room 25. sto ancora leggendo in giro gente che parla di qual è il cooperativo più vecchio e mi hanno citato un altro gioco che ho giocato, ne parlerò brevemente, che è The Republic of Rome. E ho fatto una sola partita, ma è stata da morire da ridere. Praticamente in questo gioco i giocatori interpretano senatori di Roma che devono prendere le decisioni per portare alla grandezza la Repubblica. E quindi c'è una fase in cui veramente si interpreta il Senato. Mi ricordo che in quella partita eravamo tutti i senatori, erano contro un giocatore e continuavano a non votarlo per farlo diventare Magister Militum. E quindi lui non riusciva ad andare in campagna a convincere nessun elettore. Noi votavamo sempre un altro giocatore che ha perso entrambe le guerre puniche e abbiamo finito la partita in 20 minuti. Cioè, Quella è sono stati 20 minuti di decadimento senato in storico. cui questo giocatore cercava di convincere tutti a votarlo. E vabbè, le guerre puniche sono un tiro di dado alla fine. E quindi abbiamo perso entrambe le guerre puniche, il gioco è finito, 30 minuti di spiegazione e 20 di gioco. Però è stato veramente da morire da ridere la fase Senato, quello devo darne atto. Ed è definito cooperativo? Sì, era cooperativo perché qui giocano tutti assieme. Ok, però si può anche dividere in Cioè, squadra, cioè bisogna comunque no, sì. no, no, no, sia tutti assieme, sia tutti senatori di Roma. Però bisogna gestirsi i ruoli, ecco, esatto. E questo giocatore voleva avere un ruolo, gli altri non glielo volevano dare e abbiamo preferito la morte quasi. Un altro cooperativo di cui si parla molto adesso è Space Alert. Lo conosci, Claudio? No. Anche questo ha il CD come Zombie 15. Space Che fortuna. Alert del 2008 è tra l'altro di Vlada Kvatil, come si pronuncia? Che è quello di nome in codice, ecco, giusto per Sì. dire. E, che cioè, ha fatto molti giochi, però nome in codice Ah, aspetta, probabilmente è quello che ha vinto di più. forse ho presente, è quello dove c'è il CD che ti dice tipo Danger, sposti in Sì, questa sì, stanza, e quel gioco sì. lì ho capito. Tra l'altro, un paio di anni, no, l'anno scorso avevo sentito di un editore che era interessato a fare un'edizione italiana, però ancora niente. E vabbè, comunque ormai, essendo un gioco del 2008, non so se avverrà questa cosa. E ok, quindi comunque Space Alert è un po' Zombie 15, è un po' Room 25. Insomma, preso dai migliori. Sì, l'ha fatto prima di loro, quindi sono loro che ha preso da lui. Però chi Ok. sa, non so giocato, quindi non so niente. Però sicuramente è un gioco curioso. Vlada è un bravo creatore di quel nome perché il cognome è impronunciabile. È un bravo creatore di board game, quindi non abbiamo ancora parlato. Ecco, c'è un altro gioco con una meccanica strana del traditore. Alcatraz. Ah no, sì, Fuga da Alcatraz. Oh signore Vai, mio, sì. Claudio, illustraci. Allora, probabilmente il peggior modo per mettere un traditore in un cooperativo è farlo rivelato ogni turno perché viene votato come traditore del turno. Ecco, in questo gioco qui Alcatraz noi siamo dei prigionieri che devono cercare di fuggire, però la cosa particolare è che a fine partita, se si riesce a fuggire, il giocatore con meno oggetti che ci aiuteranno a uscire, diciamo, verrà lasciato dentro in prigione. Quindi un giocatore, se gli altri scappano, rimane dentro, altrimenti rimangono tutti dentro e perdono tutti e vince il traditore. La cosa sciocca di questo gioco, che è un gioco dove semplicemente devi spostarti e prendere oggetti che ti serviranno poi per essere accumulati e risolvere delle stanze per ottenere un codice numerato, che se noi avremo tutti i numeri a fine partita, usando quelli dei giocatori che ne hanno di più, scapperemo, e tralasciando quello dietro che ha i codici minori. A fine di ogni turno noi praticamente tutti voteremo segretamente un giocatore, poi si riveleranno le votazioni e quel giocatore lì sarà il traditore del prossimo turno, che agirà come traditore rivelato. Questo ogni turno succede. Quindi il gioco non ha, cioè questa meccanica non ha alcun senso. Semplicemente perché tu sai già chi è contro di te e allora voterai magari il giocatore che è più lontano nella plancia. Per un fattore di comodità. Certo. È abbastanza triste. In effetti mi lascia molto perplesso questa cosa. No, ma non, no, numero uno non è divertente perché è semplicemente un gioco dove devi andare avanti e indietro e prendere chiavi inglesi o cose del genere, basta, all'infinito. E seconda cosa, l'unico motivo per non votare sempre lo stesso traditore è che se tu voti sempre lo stesso, questo poi guadagnerà delle carte che poi non sono neanche questo granché, anche perché lui per usare deve andare in una certa locazione, mi sembra, che tu puoi anche bloccargli con, quindi non lo so, è proprio un gioco sbagliato per il traditore, come per Specter Rose, che non ha senso mica in traditore, qui dove hanno cercato proprio di fare come cosa particolare, unica del gioco, questo traditore a votazione, ed è stato abbastanza un bel flop. E direi che anche il gioco in sé lo ha dimostrato, perché si vede veramente poco, non penso abbia venduto tante copie, nonostante abbia pure l'espansione. Ah, non lo sapevo. Già. Non sapevo dell'espansione. Beh, in realtà non riusciremo a citare tutti i cooperativi in questa puntata, è impossibile. C'è da dire che esistono cooperativi dei tipi in cui l'abbiamo parlato, quelli più narrativi, Sì. o quelli, diciamo, ridotti all'essenziale come giochi di carte, come può essere Anna B. O cos'altro? Radio Londra. Beh, sì, esatto, Radio Londra. Cioè, giochi cooperativi addirittura tascabili da portare in tasca. E poi non abbiamo parlato dei, diciamo, big, forse possiamo definirli così, di questo genere, ovvero i vari giochi ambientati ad ambientazione Cthulhu, ad ambientazione Lovecraft, ovvero Arkham Horror, Eldritch Horror, Le Case della Anche Follia, poi adesso abbiamo anche Pandemic Tool, continuano ad aumentare Lo questi. Stregone di Salem, Oh signore. Il Segno degli Antichi, ce n'è quanti ne vuoi a tema Cthulhu? Ah, sì, basta, non me ne è venuto in mente un altro. Ok. Sì. Sicuramente, personalmente, quello che preferisco dei quattro che ho citato è Eldritch Horror. Arkham Oh, Horror mi sono in piace. totale disaccordo io, però parlo Aspetta. pure. Arkham Horror è molto bello, ma a livello di meccaniche preferisco Eldritch Horror. Le Case della Follia ho giocato solo alla vecchia edizione e non Sì, mi piace per niente. sono d'accordo anch'io. Lo Stregone di Salem Oh, quello anche molto noioso. è un bel cooperativo, a me quello mi piace, però di quelli già più German, diciamo, ha un approccio più, come dire, quasi matematico, per modo di dire. In realtà non è veramente matematico, però è più serioso, è più gestionale rispetto a un È lanciadadi. più un Eurogame quello, cioè sembra più un Sì, misto è German. più un Eurogame rispetto a un American dove tiri dei secchiati dadi a 6, come sono gli altri giochi di Cthulhu. Il Segno degli Antichi ci ho Sì. giocato tantissimo tempo fa, una sola partita, e mi ricordo che fu orribile. Però Vabbè, è un ricordi. fattore di gusti anche lì, come per tutti. Io, se devo decidere, preferisco Pandemic Cthulhu perché è Ah, è semplice vero, c'è anche e quello. veloce. E non sono un grandissimo fan di Pandemic, ma questa versione qui, essendo molto veloce e semplice, si può giocare anche tranquillamente in tre giocatori, per dire, è un cooperativo molto spedito. Mentre di solito gli altri giochi, di questa ambientazione, tutti i giochi abbastanza pesanti e lunghi. Sì, quello è vero. E allora, parlavamo di Eldritch e Arkham, quindi. Allora, qui ci sono due schiere di scuole di pensiero che si combattono da una vita eterna, perché abbiamo gli amanti del passato di Arkham Horror, che è un gioco uscito nel 2005, e 8 anni dopo sono arrivati invece gli amanti di Eldritch Horror, perché nel 2013 è uscito Eldritch Horror, che è una versione simile ad Arkham Horror, ma che in realtà ha cambiato molte cose. E quindi c'è che ci sono molti giocatori da tavolo che si sono schierati su due fazioni. C'è chi preferisce ancora Arkham Horror, c'è chi invece pensa che Eldritch Horror sia più rivoluzionario rispetto ad Arkham, per vari motivi, quindi ognuno ha il suo modo di pensare. Come abbiamo già detto prima, tu preferisci Eldritch. Sì. Io personalmente, se devo dire la mia, preferisco Arkham. Però è perché ognuno ha i suoi motivi e esperienze e comunque modi di pensare. C'è anche da dire che Arkham Horror potrebbe aver stufato molti giocatori, perché comunque è vecchio, cioè è uscito, c'è stato per 8 anni prima di Eldritch, quindi magari veniva giocato tante volte. Poi Sì. magari è un discorso che possiamo fare anche per Eldritch, perché ormai comunque sono già 4 anni che c'è anche quello C'è da adesso. dire che Arkham Horror è uscito in un periodo in cui c'era la rinascita dei giochi da tavola e nei paesi come l'Italia, dove la distribuzione era un po' più difficoltosa, era uno dei pochi, quindi diciamo non aveva molta concorrenza. Per dire, per carità, è bellissimo come gioco, però è anche vero che c'erano pochi giochi in Italia in quel momento. Adesso, quando è uscito Eldritch Horror, siamo invasi, c'è un surplus di uscite che è mostruoso. Quindi Allora, la differenza, Arkham sì. è visto un po' come l'unico, uno dei pochi grandi giochi di quei tempi, perché effettivamente c'erano pochi giochi in quei tempi. La differenza principale tra questi due giochi è data dal modo di cooperazione del gioco in sé. Mentre in un Arkham Horror è più ognuno vive la sua piccola avventura, Eldritch Horror è un gioco che è basato sul tutti dobbiamo fare precisamente questa cosa, se no la partita è persa. Almeno io li ho vissuti così, perché in Arkham Horror, come in Eldritch, abbiamo un antico, quindi questa creatura demoniaca, che viene comunque da un altro mondo, che sta per svegliarsi, questo in entrambi i giochi, e tu sai che hai un certo numero di turni per impedire che questo avvenga. E in Arkham e in Eldritch sono due modi diversi, però ovviamente per impedire che arrivi questa creatura, che può cambiare di partita in partita, quindi c'è anche queste, ci sono tante variabili in entrambi i giochi, perché sono diversi mostri. Però in Arkham Horror, per dire, l'avanzamento di questa creatura, oltre a essere più lento, almeno io l'ho vissuta così, non è comunque mortale, perché dopo si potrebbe anche affrontare la creatura volendo, se questa arriva, nella maggior parte dei casi. E quindi i giocatori non è che sono legati a dover fare per forza ogni turno la cosa giusta, possono anche andare in giro a comprare potenziamenti o a vivere certi eventi. Mentre in Eldritch Horror abbiamo sempre la stessa cosa, che tu sai che hai un tot di turni per fermare l'avanzamento di questa evocazione, però hai un modo diverso per evitarla, e ci sono questi eventi che sono talmente pesanti che tu, se fai il calcolo matematico, dici: ok, se noi non facciamo queste cose perfettamente, non vinceremo mai la partita. Magari all'inizio non succede perché esce una carta più facile, ma poi uscirà la carta pesante che ti dice: ok, abbiamo 10 turni per dire se facciamo tutto perfettamente, ce la possiamo fare questa carta, se no non ce la facciamo. E qui la differenza è che se qui l'antico si sveglia, la maggior parte dei casi è finita, o comunque non cambia molto. Mentre in Arkham puoi affrontarlo, vabbè. Però qual è il problema? Eldritch ha molti eventi che sono pesanti. Arkham ce li ha, però sono calibrati dal fatto che in Arkham c'è una meccanica di parametri che secondo me è migliore di Eldritch. Perché in Arkham noi abbiamo dei parametri che possiamo modificare all'inizio di ogni turno, quindi sono variabili. In Eldritch abbiamo dei parametri di base che vanno potenziati giocando dei turni in certe zone, cioè io voglio avere la forza più alta, devo fermarmi a Shanghai un turno e sperare che mi esca l'evento e risolverlo per avere il potenziamento. Però già ho perso un turno e magari non ce l'ho fatta. O Poi magari succede come l'ultima partita che abbiamo fatto ad Eldritch, che un nostro giocatore, Stefano, è andato, dovuto andare a Shanghai per potenziarsi nella lotta, ha preso il potenziamento e poi è uscito l'evento che gli ha tolto subito il potenziamento. Quindi ha sprecato un turno. Mentre questo in Arkham non può succedere, perché tu ogni turno puoi cambiare i parametri come vuoi. Cioè tu tipo hai 2 punti che puoi spendere ogni turno, dipende dal personaggio, per passare da 0 lotta a 2, per dire. Non hai bisogno di prendere potenziamenti. Sì, la cosa del cambiare parametri ogni turno è forse una delle meccaniche più interessanti che abbiamo visto in un American. Ecco, in un American di solito, che sono tutti triti, questa è una delle meccaniche più interessanti che abbia E visto. secondo me avrebbe senso in Eldritch anche quella, perché come ho appena detto, può succedere che tu hai sprecato un turno di gioco, ma potevi anche non saperlo, comunque è perché hai fallito la prova e non sei riuscito a prendere il potenziamento. Mentre in Arkham questo non succedeva perché all'inizio turno li cambiavi di un tot di passi. In Eldritch invece devi spendere ancora più tempo solo per potenziarti, e quindi questo rallenta ancora di più il gioco. Molti dicono che Arkham Horror è un gioco lunghissimo. Sinceramente, io in 1 ora e mezza, 2 ore finisco una partita. Eldritch Horror è molto più lungo, anche per questo motivo, secondo me. Perché bisogna spendere molto più tempo anche per ottenere dei potenziamenti, che Ma in Arkham non ci sono. allora, secondo me a livello di lunghezza siamo lì. Beh, allora, diciamola così. Arkham Horror dura 1 ora e mezza, 2 ore, e finisci la partita che o la vinci o la perdi, però perché o hai chiuso il portale o stai picchiando l'antico. Eldritch Horror dura 2 ore, 3 ore, però sei a metà partita, hai perso la partita a metà partita, ok? Diciamola così. In realtà non sei arrivato neanche alla fine in Eldritch, quello è il punto. E l'hai giocato con lo stesso tempo, con lo stesso orario. Però se avessi vinto ci avresti impiegato 1 ora in più, probabilmente. Perché effettivamente, se tu ci guardi, tutti dicono è una versione più striminzita di Arkham, ma in realtà è la versione più lenta di Arkham, perché tu puoi fare molte meno cose nel turno. In Arkham facciamo esempio, tu hai movimento 3, ti muovi fino a 3. In Eldritch no, tu di base hai solo un movimento per turno che puoi massimizzare con un biglietto se l'hai comprato il turno precedente. Questo ti rallenta ancora di più il gioco, ma di tanto. Ma Perché infatti è comunque. Sì. quello che si intende, che ha diluito le regole, perché Arkham Horror effettivamente come regolamento è abbastanza, per un American soprattutto, è abbastanza pesante, soprattutto da spiegare a uno che non ci ha mai giocato. Ma l'unico problema è la gestione dei mostri, ma se tu hai un giocatore che lo sa fare, lui potrebbe anche dire semplicemente: questo mostro te lo spiego se lo vuoi affrontare, ti dico come arrivano sul campo. Il discorso è quello lì, però per il resto Arkham non è così complesso. Tu hai dei parametri che puoi gestire e tutto il resto è uguale ad Eldritch. Se ti fermi in questa locazione, risolvi la carta di quella locazione. L'unica differenza sono i portali che vanno risolti con 2 turni di Sì. gioco. Alla fine non sono così differenti. Però appunto, il cambiare certe regole in Eldritch in realtà ha reso un gioco molto più lento, perché tu ci metti molto più tempo a fare delle cose che in Arkham facevi in un turno. Cioè, in Arkham Horror, per dire, aggiungiamo l'espansione Dunwich, c'è la plancia di Dunwich. Se tu hai certi parametri, ci arrivi anche in un turno a Dunwich, massimo 2. In Eldritch Horror, se aggiungi l'espansione che aggiunge l'Alaska, e capiti che sei da un'altra parte della plancia, ci devi mettere anche 5 turni solo per arrivare in Alaska. Questa è la differenza. Eldritch non è un gioco peggiore, è un gioco più lento. Per questi vari No, motivi. non sono d'accordo. Ah, non sei d'accordo? Quanto è durata l'ultima partita che abbiamo fatto e abbiamo perso a metà partita? Eravamo anche appena giocatori, eh. No, perché è fino a 8 il gioco, eravamo in 5. Vabbè, 5 sono tanti, eh. Però anche in Arkham l'abbiamo giocato in 6, è durato uguale, ma l'abbiamo vinta la partita. Sì, però io non ho fatto nulla per tu. Vabbè, dai. No, vabbè, l'unica cosa che volevo dire è questa, che sono simili, ma la differenza è che uno è un gioco più lento. Cioè, è questa la cosa che mi fa piacere di più Arkham, perché io in Arkham mi diverto, perché comunque non lo sento così lento come gioco. Eldritch i turni sono molto lenti. Cioè, tu prima che fai la cosa che ti diverte, devi aspettare parecchio tempo. E poi magari arrivi a un punto del gioco in cui hai già capito, ecco, è uscito questo evento che sembra praticamente impossibile, abbiamo rimasto pochissimi turni, la partita è già persa. Però andiamo avanti per oltranza. È quella lì la cosa. Questo è il mio parere, adesso sentiamo il tuo. Ah, niente, il mio parere è quello che dicevo mentre ti interrompevo semplicemente. Secondo Ok. me, a livello di longevità, i due giochi sono similari. Poi ovviamente sì, se inizi ad aggiungere espansioni grandi, perché sono i classici giochi che hanno le espansioni piccole e le espansioni grandi, la lunghezza del gioco può diventare veramente una roba assurda. Più che altro anche a livello, anche a spiegarle, perché comunque parliamo di plance che hanno un bel po' di meccaniche in più. Per il resto, io sono di quella scuola che considera Eldritch Horror una versione diluita di Arkham Horror. Sono convinto di questa cosa, anche perché avendoli giocati entrambi negli ultimi 10 giorni, diciamo. Questo vale anche per me, quindi per farvi capire che siamo di due scuole di pensiero opposte, ma alla fine abbiamo giocato le stesse partite, bene o Sì, male. erano le stesse 2 partite, quindi. Boh, io continuo a credere che Eldritch Horror sia la versione più diluita di Arkham Horror, che poi non vuol, diluita non vuol dire Migliore o comunque sì, no, più veloce, no? non intendo diluita ai livelli di L'Isola Proibita, cioè che Sì. proprio è minimale, intendo ha un po' meno regole, cioè per dire dai mostri che vanno nel cielo di Arkham ai negozi che chiudono se c'è il livello di terrore, intendo queste cose qui, non intendo tagli drastici al regolamento, Sì, quindi la tua considerazione finale per Arkham Eldritch qual è? Cioè, cosa ne pensi di Eldritch Horror e cosa ne pensi di Arkham Horror? Poi io dico la mia ultima parole, due parole via, su sono questo argomento. due gran bei giochi. Sì. Arkham è sicuramente un gioco fondamentale per la storia dei giochi da tavolo e Eldritch Horror no, non lo è perché comunque non ha portato niente di nuovo, mentre Arkham ai suoi tempi l'ha fatto. E se dovessi consigliarne uno, probabilmente consiglierei Eldritch Ok. perché continuo a considerarlo più leggero e forse leggermente, forse meno ingombrante sulla tavola, ma non sono sicuro perché siamo lì, a livello di grandezza. Sì, no, probabilmente forse è un po' più piccolino questo, sì, di Arkham. Ma non è una cosa importante. Per il resto, appunto, se mi propongo una partita Arkham Horror, io sono tipo. Se mi propongono una partita Eldritch Horror, sono più. Ah, vabbè, dai, è da un po' che non ci gioco. Cioè, Ok. non, nessuno dei due è il mio gioco preferito. I miei cooperativi preferiti rimangono Battlestar Galactica, Shadow Over Camelot e Ghost Stories. Però, Certo. una Allora, partita ci sta. mentre io dico semplicemente, anche tanto ma mi sarò attirato l'odio di molta associazione perché giocano continuamente Eldritch Horror, però vabbè, questi sono fattori di gusti. Allora, io li ho giocati in un lasso di tempo molto breve, perché Eldritch Horror lo giocai prima di Arkham Horror un anno fa, Arkham Horror l'ho giocato per la prima volta a metà di quest'anno. E allora, sinceramente, il primo impatto che mi diede Eldritch Horror è, ah, carino questo gioco, perché lo giocai senza espansioni. Dopo l'ho rigiocato con le espansioni, ed è tremendamente difficile, cioè con le espansioni sembra un gioco impossibile da vincere, sinceramente. Cioè, il base l'abbiamo vinto tranquillamente, le espansioni a me sembrano sempre partite destinate al fallimento, di solito. Arkham Horror, invece, l'ho sempre vinto. E quindi, normale, dai, cioè, ovviamente bisogna anche perdere nei cooperativi, perché siano più apprezzati, quindi Arkham Horror, carino anche quello. Però, la mia differenza tra questi due giochi, personale, è ok, dai, Arkham Horror dura un'oretta e mezza, 2 ore, ci può stare. Eldritch Horror io me lo sento pesare di più, sinceramente. Cioè, è un gioco carino. Se durasse un'ora e mezza, 2 ore ancora. Però io ultimamente, quando lo gioco, mi pare che passino 3 ore di solito. E non ce la faccio dopo un po'. Cioè, dopo un po' mi annoio. E quindi, a differenza di Pietro, dico, beh, dai, Arkham Horror ci può stare, Eldritch Horror. Siamo praticamente uno il contrario dell'altro. Sì, in questo Ma caso sì. Ok, è una questione di gusti. Ok. ci siamo dilungati tanto, ma comunque stiamo parlando di un genere, quindi è normale. E non abbiamo neanche detto tutto quello che vorremmo dire. Ci sono un sacco di giochi di cui non siamo riusciti a parlare, a citare, che meriterebbero di essere citati. Però dobbiamo chiudere qui perché si è fatto tardi nel momento in cui stiamo registrando e siamo in altre faccende affaccendati. Quindi iniziamo con i saluti. Allora, parlando della nostra associazione Area Games, potete Potete venire a trovare tutti i venerdì sera al Bar President a Forlì, in Viale Roma, in zona Ronco, dove dalle 9 fino a più o meno le 2 di notte si gioca a giochi da tavolo e da noi giocano tutti, nessuno rimane in piedi. Per altri eventi associativi, invece, per ora dell'anno nuovo ancora non si sa niente, avremo una riunione generale presto, dopodiché vi annunceremo le prossime iniziative della nostra associazione. Ok, va bene, buona serata a tutti allora. Ok, ci sentiamo alla prossima. Da Claudio e Pietro è tutto. Ciao! Ciao ciao.